capitani anche per lei, soltanto in due oppure in quattro anche scribai con le palline, come antifurto per esempio. Ma che antifurto, mi faccia il piacere, questi signori qui stavano suonando loro, un sintrometta. Ma no, aspetti, mi porga l'indice, ecco, lo alzi così, guardi, guardi, guardi, lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? È prematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Bello. Beh, alzi la mano chi non conosce il nome dell'attore che inscena questa meravigliosa supercazzola. La supercazzola è diventata una parola comune del nostro linguaggio quando qualcuno sta inventando, sta dicendo qualcosa, si sta arrampicando sui vetri, diciamo. È uno spezzone che vale l'intera presentazione per il protagonista di oggi, Ugo Tognazzi, protagonista assoluto della scena televisiva cinematografica per 50 anni. Tognazzi fa parte di quella schiera di attori che hanno raccontato il nostro paese, hanno raccontato l'Italia, sono partiti con genialità dai loro difetti, dalle debolezze, dalle ombre più che dalle luci, Gassman, Sordi, Manfredi Mastroianni, un poker incredibile, e hanno rappresentato l'italiano medio, la sua ipocrisia, il contrasto tra come ci si rappresenta verso gli altri e come si è veramente. E gli spettatori lo hanno visto spesso sullo schermo indossando panni, non so, di donnaioli impenitenti, personaggi legati ai piaceri della vita. Beh, Tognazzi uomo era esattamente questo. Era partito dalla rivista negli anni 50, aveva trovato popolarità con la Rai in bianco e nero assieme a Raimondo Vianello, aveva costruito una coppia che aveva fatto ridere tutta l'Italia, e poi lui aveva costruito la sua carriera passando con grande naturalezza dalla commedia all'italiana al dramma politico e storico. Spesso mischiava i generi, una recitazione che solo i grandi hanno, quella nella quale anche quando si ride c'è sempre quella punta di amarezza. Sì, sì, mi avete aperto gli occhi. Mi hanno sequestrato. Voi non avete pagato l'uri di infami. Mi hanno tagliato l'orecchio e ve l'hanno mandato. E poi mi hanno ammazzato. Ma i veri assassini siete voi! Voi, sì! Sporche carogne che io consideravo fratelli. I fratelli hanno ucciso i fratelli. Non mi vedete mai più. Caini! Tognazzi nasce il 23 marzo del 22 a Cremona, e lui tanti anni dopo racconterà le tre T di Cremona, Turun, Turas, Tettas, dirà d'ora in poi Cremona ha quattro T, perché la quarta sono io, e Tognazzi. Il padre è ispettore per una compagnia di assicurazioni, la famiglia si sposta con lui in varie città italiane per seguirlo nel suo lavoro, e poi i Tognazzi tornano stabilmente a Cremona quando Ugo ha 14 anni. La famiglia è in difficoltà economiche, il padre è malato, lui giovanissimo deve andare a lavorare come contabile nel locale salumificio Negroni, deve contribuire al bilancio familiare, vivono in un palazzo popolare destinato alle famiglie del personale delle ferrovie, così Tognazzi racconta quel periodo a Enzo Biagi. Da ragazzo volevo, come si dice, uscire dal gregge assolutamente, perché ero circondato dai figli dei ferrovieri che erano tutti studenti, abitavano in questo caseggiato popolare dove abitavo io, e io che invece ero figlio di un assicuratore, quindi mi davo un certo tono da medio borghese, però insomma, e non da proletario, per ragioni proprio di famiglia, mio padre è malato, necessità di importare a casa qualcosa, andai a lavorare subito a 14 anni, interrompendo gli studi e continuandoli alle scuole serali e cose di questo genere. Mi dava un po' fastidio che questi figli di ferrovieri andassero a scuola e pensassero al loro avvenire. Io dicevano, e tu cosa farai? E io ero imbarazzato, perché per il momento andavo a questo salumificio a fare il contabile. Tra lavoro e scuole serali non è che gli rimanga molto tempo libero, ma quello che ha lo dedica alla recitazione. La madre voleva che diventasse sacerdote, il padre violinista, e la strada insomma è stata ben diversa da tutte e due queste vie. Ugo sogna il mondo dell'avanspettacolo, sogna la rivista che è stata resa celebre in quegli anni da gente come Totò, Raschel, Macario, insomma da dei giganti, e lui ha doti naturali, una bella voce, una verve comica istintiva, insomma comincia a muovere i primi passi, ci prova. A Milano partecipa a un concorso per dilettanti al Teatro Puccini, lo vince, e poi a Cremona prende parte alle prime messe in scena, insomma niente di eccezionale. La vera grande occasione gliela offre un impresario, un ex cantante, si chiama Piero Cluberti, 300 lire al giorno per recitare nella sua compagnia di avanspettacolo, l'attore giovane, l'attore brillante. Poco tempo dopo arriva un'offerta ancora migliore, gli sarà sembrata a quel punto l'offerta della vita, 1000 lire al giorno nella compagnia di Wanda Osiris per sostituire Carlo D'Apporto. Beh, e questa compagnia non riuscirà neanche a debuttare, perché dopo il 25 aprile D'Apporto ritorna e Tognazzi verrà liquidato. E a Guerra Finita riesce a iniziare ufficialmente la sua carriera da comico da rivista nello spettacolo di Marcello Marchesi e Dino Gelis. Lo spettacolo si chiama Viva le donne. In scena c'è lui, c'è Erika Sander, Miriam Gori e 40 ballerine, cosa che a Ugo non dispiace affatto, perché lui ha già una passione molto, molto spiccata per le belle donne. Fino al 1950 gli spettacoli di rivista sono il suo pane quotidiano, ma alle porte c'è quello che diventerà il suo lavoro principale per i decenni seguenti. Appare per la prima volta nei Cadetti di Guascogna assieme a Walter Chiari e non smetterà più di recitare. I primi film sono commedie, qualche volta in costume, lui lavora con tutte, con Silvara Pampanini, con Delia Scala, con attori come Aroldo Thieri, film di cassetta, una commedia dopo l'altra. Le farse che in quegli anni fanno ridere il pubblico italiano, che ha voglia di ridere perché siamo nell'immediato dopoguerra. E poi nel 51 lui conosce Raimondo Vianello e qui nasce un sodalizio che fa ridere ma anche provoca, cioè, diciamo che qua il livello si alza notevolmente. Sfondano nella TV italiana nel 54, sono la coppia di mattatori della trasmissione 1-2-3 e le loro scenette, i loro sketch come li chiamavano, conquistano gli italiani, sono irriverenti, si travestono, scatenano risate con delle trovate assurde. Cosa dobbiamo fare? Io non so niente di questo sketch. Ma come non sai niente? Di Bozzetti Toscani ne abbiamo fatti tanti. Tu fai la madre, io sono il figlio, io sono Tito. Tu fai la pasta, io dipingo il tetto di casa, scendo giù e tu devi dire una frase sola. Che cosa devo dire? Tu dici, Tito, tu hai ritinto il tetto, sì. Ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti. Sì. Però lo devi dire in toscano. Oh. Tito, tu t'ha ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti. Tito, tu t'ha ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti. Ma perché non lo fai tu? Lo sei così bello, io faccio il contadino, no? Ma no, il protagonista sei tu. Con una battuta sola. Ma è la più importante. Sì, Tito, tetto, rotinto, il tetto, patato, tetto, tetto, ma no, Tito, tetto, rotinto, il tetto, ma tu, Tito, tetto, rotinto, il tetto, patato, tetto, ti intendi tanto di tetto. Va bene? Va bene. Sai quando devi dirlo? No. Ti faccio segno io, d'accordo? Signor Tognazzi, signor Vianello, in scena, prego. Ricordiamoci che stiamo parlando della Rai degli anni 50, bisogna camminare sulle uova perché la censura non è un fatto che accade raramente, e soprattutto se si tocca l'intoccabile, cioè il mondo della politica, avviene questo incidente di percorso che per la coppia sarà gravissimo. L'antefatto è questo: il 23 giugno del 59 il presidente della Repubblica Gronchi era caduto sul palco presidenziale della Scala, lui era lì col presidente De Gaulle in visita ufficiale, insomma aveva mancato la poltrona. Un'occasione troppo ghiotta per i due comici, che dissacrano il tutto a modo loro. Certe volte non avevo il coraggio di dirlo nemmeno Vianello, per paura di doverne discutere con lui, e mi ricordo che gli dissi: adesso quando noi usciamo davanti a quel bancone, c'era un bancone dove facevamo, sbrigavamo della posta così comicamente, gli dissi: allora ci presentiamo tutte e due, io casco per terra, tu mi tiri su e mi dici: ma chi ti credi di essere? Allora lui al momento, preso la sprovvista, non aveva, dice, ma cosa vuol dire? Poi capì, perché avevamo visto insieme la cosa, Vianello aveva una faccia, però immediatamente dopo dovevamo andare in scena e si fece questa cosa, che però, voglio dire, non era nemmeno così irriverente, era un modo divertente di ripetere un incidente accaduto il giorno prima, con in più una battuta che poi non era appunto di irriverente nemmeno per il personaggio, perché diceva: a me ti permetti anche tu di cadere in quel modo, non sei lui, insomma. È una battuta ingenua. Immaginate oggi cosa succede in TV con i vari Crozza, Litizzetto, con comici che massacrano il politico di turno. Bene, quella era un'Italia completamente diversa. La sera stessa della trasmissione incriminata, il direttore generale della RAI, Ettore Bernabei, cancella il programma e licenzia in tronco Tognazzi e Vianello per aver detto "chi ti credi di essere?". Pensate quanto è cambiato il mondo e quella televisione. Il colpo non è indolore, ma Ugo ormai è popolarissimo e alle porte peraltro c'è l'inizio di un periodo d'oro per il cinema italiano. Quasi questo inconveniente diventa un trampolino di lancio. Tutto questo, il cinema italiano è pronto per esaltare le capacità del nostro protagonista. Sta arrivando lei, insomma, la grande commedia all'italiana. Ugo Tognazzi in realtà sul fronte privato è un gaudente, è un moderno epicureo, è uno brillante, è divertente, è uno che si circonda di amici, che organizza scherzi, che cucina per loro. Questa è un'abitudine che crescerà negli anni, ne parleremo ancora. E poi ci sono le donne. Lui è quello che si definisce un grande amatore, ha un trasporto per il genere femminile paragonabile solo forse a quello che ha per il buon cibo. Paolo Villaggio in un'intervista definì questa passione di Tognazzi per le donne bulimia amorosa, e in effetti è vero. Insomma, nei primi anni di carriera peraltro lui è lì come un bambino in un negozio di caramelle tra le ballerine dell'avanspettacolo. Nel 54 per esempio si innamora di una ballerina inglese che si chiama Pat O'Hara, la relazione durerà 6 anni, loro non si sposeranno mai ma avranno un figlio, il primo figlio Ricky. Nel corso della sua vita i figli saranno 4 in tutto, da 3 donne diverse. Nei primi anni 60 parte la grande onda della commedia all'italiana, che è un genere specifico dove si ride con intelligenza, con un fondo di amarezza, e Tognazzi trova proprio il suo terreno di gioco perfetto. Arrivano per lui dei film clamorosamente belli: Il Federale, La Marcia su Roma, I Mostri, Il Magnifico Cornuto, Straziami, Ma di Baci Saziami, e si potrebbe andare avanti ancora. È un periodo d'oro per il nostro cinema, con registi che ancora oggi sono studiati nelle scuole di spettacolo di tutto il mondo. E poi c'è una generazione di attori, insomma, l'abbiamo detto e ripetuto, una generazione straordinaria. E Tognazzi gira anche 3-4 film all'anno, diretto da gente come Risi, Lizzani, Steno, e lavora a fianco di attori come La Cardinale, Manfredi, Mastroianni e tanti altri, e soprattutto lavora con quello che forse è il suo più caro amico nella vita, Vittorio Gassman. Eccellenza, ci siamo scontrati con il nemico e lo abbiamo disperso. O 5 erano, l'abbiamo messi tutti in fuga disordinata. E dopo dura lotta abbiamo anche requisito una vettura automobilistica. E per questo, eccellenza, che saremmo molto onorati se come modesto omaggio volesse accettare questa vetturetta. Eccoli, eccoli, i ladri, sono loro, criminali. Ma signor Marchese, si calmi, ora sistemiamo tutto, sono fascisti. Ma sono dei farabutti. Signor capitano, gli dia una lezione a quello sporco capitalista agrario lì. Sta zitto tu. Si calmi, signor Marchese, si calmi, è stato un doloroso equivoco. Certo, se avessero saputo che lei era con noi. Ma guardate, guardate la mia macchina, guardate come me l'hanno ridotta. Farabutti, farabutti. Il boom della commedia all'italiana durerà quasi fino alla fine degli anni 70, segnando un periodo hollywoodiano per il nostro cinema, per i suoi interpreti. C'è un successo clamoroso. Ugo è di colpo uno degli attori più pagati, c'è il mondo della pubblicità che lo cerca. Un film con Tognazzi è un film di successo ancora prima di iniziare a girarlo. Lui vive quel momento mettendo assieme le sue grandi passioni, amici, tennis e cucina. Crea attorno a sé una specie di comunità. Dal 66 lui ha questa super villa al mare a Torvaiane, che lì organizza un torneo di tennis che è un pretesto per stare con gli amici e per fare quelle clamorose e leggendarie cene con 40-50 persone. È il periodo nel quale Ugo è al massimo del suo successo. Il falco, il falco, il falco e il gabbiano. La carriera, la vita di Ugo Tognazzi, un uomo che ha amato tutti i piaceri, le donne, il cibo, lo sport, ha fatto tutto con passione, quasi con voracità, ma soprattutto stiamo parlando di un attore che ha segnato in maniera indelebile la storia del cinema italiano, 150 film come minimo, carriera incredibile che lo ha reso un'icona di quella lunga e fortunata stagione del cinema italiano detta commedia all'italiana, definita così, e assieme a altri giganti lui ha veramente cambiato la storia del nostro cinema e della percezione che nel mondo hanno avuto del nostro cinema oggi. Sentiamo molto la mancanza di quel modo di fare cinema. E lui agli inizi degli anni 70 è tra gli attori più pagati, recita anche in 2-3-4 film all'anno, alterna la recitazione comica con la drammatica, anche nello stesso film, nello stesso personaggio. Forse il sodalizio più particolare è quello che ha con Marco Ferreri, lì forse tira fuori le sue migliori doti. Ferreri, suo grande amico, lo vuole in pellicole come La peregina, Contro sesso, La donna scimmia, fino al meraviglioso film La grande abbuffata, dove la persona di Tognazzi sembra fondersi con il personaggio Tognazzi. Tieni, a te l'onore. Lo puoi tagliare. Ma dove vuoi tagliare qui? Non si può fare le parti. È troppo grosso sto affare. Ma come troppo grosso? Sì. Questo è un poema, eh. Ma è troppo grosso il tuo poema. Senti, provalo come forchetta. Un pochino solo. Com'è? È una merda. Scusa, Andrea. No. È una merda. No, non sei sincero. È un poema di merda, ecco. Scusami, Andrea, provalo tu. Solo un pochino. È buono, no? Sì, è buono, ma non mi faccio... Ma bisogna mangiarlo. La grande abbuffata è un film complesso. Intanto i quattro attori rappresentano le quattro fasi della vita, secondo Freud, vissuto tutto a ritroso, perché alla fine, infatti, c'è proprio Tognazzi che muore in un dolce enorme a forma di seno, come Freud reciterebbe, insomma. Però oltre a questo, La grande abbuffata è un film che celebra gli eccessi della vita. Ferreri chiede agli attori di mantenere nel film i loro veri nomi: Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Philippe Noiret e ovviamente Ugo Tognazzi. E poi c'è lei, Andrea Ferreol, l'unica donna del film. E si crea una specie di cortocircuito tra realtà e finzione, con i confini che si confondono, soprattutto per lui, per Ugo, è vero epicureo della vita vera, così simile al personaggio che lui interpreta, perché come nel film di Ferrer lui è uno che ama cucinare, fare sperimentazioni al limite dell'azzardo in cucina, e le sue cene con Monicelli, con Villaggio, con Gassman e con altri diventano appuntamenti fissi. Tognazzi si racconta, usi gli amici come cavie per i suoi esperimenti, che a volte non sono neanche troppo apprezzati. I giudizi più crudeli naturalmente sono quelli di Paolo Villaggio. Sentiamo un suo ricordo tratto dal libro Intervista con Luca Sommi, Non mi fido dei santi, autobiografia bugiarda. Era certo e sicuro di essere un ottimo cuoco. No, un disastro. Aveva nella sua biblioteca, c'erano almeno 1000 libri di cucina, 1000, non lo so, e faceva da mangiare lui. Alla fine di una di queste cene famose, Mario Monicelli, prima di andare via, ha preso una busta trasparente di cellophane, sai, quelle bustine, girava per il tavolo e metteva dentro. E lui, vestito al cuoco ancora, dice: Mario, ma cosa fai? Li porto all'Istituto Italiano di Criminologia. Gli amici per Tognazzi sono importantissimi. Lui crea attorno a sé tanto una famiglia allargata, con i figli, con le compagne, con le ex compagne, ma con gli amici lui, come dire, amplia ancora di più il perimetro, e le cene diventano ritrovi per decine e decine di persone. E con loro condivide la passione per la vita, per la cucina, per lo sport, per il suo Milan. Lui è un milanista sfegatato e poi adora il tennis e crea questo torneo, il torneo Tognazzi, che diventa una consuetudine imperdibile. Per 25 anni lui metterà in palio questo scolapasta d'oro e sui campi di Torvajanica ci sono tutti i nomi del cinema che conta. Lui non è un grande tennista e per restare in campo usa dei trucchi. Questo è il ricordo di Raimondo Vianello nel documentario Ugo, Nessuno e 100.000. Innanzitutto lui faceva il cosiddetto tabellone, cercando di salvarsi sempre. Allora cominciava nel singolare maschile, veniva eliminato, allora si metteva nel doppio maschile, veniva eliminato, si metteva nel doppio misto e passava dei turni. Insomma, una volta arrivò a giocare nel femminile proprio. Nel torneo femminile, dico, ma non puoi, e vabbè, ma manca una, ho capito, dico, ma lui sperava con questo di andare avanti. L'apoteosi di questa particolare sovrapposizione tra l'uomo e i suoi personaggi, e l'apoteosi è una trilogia fortunatissima, uno dei picchi più alti della commedia all'italiana. Amici miei, tre film tra il 74 e l'85, i primi due sicuramente i più significativi, firmati dall'amico Monicelli che conosce bene Tognazzi e che si ispira proprio alla sua capacità di orchestrare scherzi fantasiosi e simpaticamente crudeli, insomma, è Tognazzi a tutto tondo. Recitazione straordinaria, il personaggio è quello del Conte Mascetti, un nobile decaduto senza una lira, insomma, una maschera divertente e drammatica allo stesso tempo. Che è? Il diario che la signora maestra ci fa tenere alla fine di ogni giornata. Brava, intelligente questa maestrina. Lui dice di essere conte, ma invece sta in un seminterrato alla giapponese, tutto di accio e umido, senza telefono, senza acqua calda, col cesso coi piedoni e un fornelletto dove la moglie ci ha cucinato una frittatina di due uova che abbiamo mangiato in tre, più un rinforzino, come lo chiama lui, di 9 olive di numero, mezzetto di stracchino e un quarto di vino sfuso. Tutto, vitto e alloggio, per 150.000 lire, che mi pare proprio una rapina, anche se lui, per fare il conte, chiama Castello un aggeggio di 3 locali. Loculi. Di 3 loculi. Io dico che codesto conte o è un gran bugiardo o si è ridotto proprio come un disperato. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Ugo Tognazzi, tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80, è protagonista di 2 trilogie. La prima, ne abbiamo parlato, è quella di Amici miei, e la seconda è anche questa, è forte, è Il vizietto. Lui interpreta questo anziano omosessuale che ha come compagno Michel Serrault. È un film che lo porta nuovamente all'apice del successo, un film peraltro che verrà rifatto anche negli Stati Uniti con Robin Williams. In Amici miei, Monicelli aveva tratto ispirazione dagli scherzi che Tognazzi organizza con gli amici. E poi c'è uno scherzo clamoroso, lo scherzo mediatico forse più clamoroso della storia italiana. Siamo nel 79, c'è un settimanale satirico, Il Male, che gli propone di farsi fotografare ammanettato tra 2 carabinieri. Lui accetta e parte questo scherzo clamorosissimo per quegli anni. Vengono stampate 3 finte edizioni dei quotidiani Giorno, La Stampa e Paese Sera, con i titoli che recitano così: clamoroso arresto di Ugo Tognazzi, è il capo delle Brigate Rosse, anche Vianello nella direzione strategica, 500 carabinieri gli danno la caccia, finto lo scioglimento della coppia ai tempi di 1-2-3, da dietro le quinte dirigevano il movimento eversivo, ampia retata negli ambienti dei comici, le congratulazioni di Pertini. Beh, è uno scherzo epocale, nelle scuole, nei posti di lavoro non si parlava d'altro, con molti che all'inizio ci avevano creduto. L'Italia era rimasta sbigottita al pensiero di Tognazzi, capo delle Brigate Rosse. Ricordate che erano anni nei quali delle Brigate Rosse si parlava e come. Alle polemiche che seguirono a questo sberleffo, Tognazzi risponde: in un'epoca come questa rivendico il diritto alla cazzata. E quando siamo all'apice del successo, in qualche modo comincia l'inizio della discesa. Ugo Tognazzi continua a lavorare ma meno, in realtà ha poco più di 60 anni e non si capacita del fatto che non ci siano più ruoli adatti a lui. In realtà lui sta facendo i conti con un male molto comune tra gli artisti, la depressione. Ha scritto così il critico Tullio Kezic. Aveva proprio tutto: l'agiatezza, l'affetto di una cerchia fedele, la soddisfazione del cammino compiuto, un'intermittente residua curiosità di nuove avventure, un fisico ancora resistente alle fatiche dell'arte e della vita. Ma felice non era, tutt'altro. Qualcosa lo rodeva dentro e a tratti improvvisamente scoloriva la leggendaria ironia del suo sguardo, che diventava vuoto, assente, oppure allarmato, quasi implorante. Intorno al tavolo da pranzo i familiari coglievano questi segnali e scambiavano impercettibili occhiate furtive. Sull'edonistico eremita di Velletri aleggiava l'incubo di una ciclica depressione. E l'ultimo film interpretato in Italia da Tognazzi è I giorni del commissario Ambrosio, regia di Sergio Corbucci. Poi ci sono due produzioni all'estero e la seconda uscita dopo la sua morte, che arriva il 27 ottobre del 1990. Due giorni prima era stato colpito da una emorragia cerebrale, era stato ricoverato in una clinica, ma non c'era stato niente da fare. In una vecchia intervista Enzo Biagi aveva chiesto a Tognazzi come avrebbe voluto essere ricordato e lui aveva risposto così: un attore che ha sempre sperato di essere il più grande attore del mondo e forse non ci è riuscito. Ironia fino all'ultimo, ironia anche sui grandi, sui terribili temi. Questo era Ugo Tognazzi, uno dei più grandi attori che l'Italia abbia mai avuto, uno che sapeva farci piangere, ridere anche all'interno dello stesso film o magari all'interno della stessa frase che diceva, insomma, un gigante. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il nostro microfono, scrivete al falco ilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina con scappellamento a destra, brematurata. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.